adesso abbracciami forte, prima di sfidare il destino, che in cambio a volte chiede la morte di un uomo, una donna, un innocente bambino, costretti ad una vita incoerente, dal male che si insinua tra la gente, da chi non gli importa che io sia vivo o sia morto, da un'anima ridotta a un mezzo di trasporto. Si accende una luce davanti al mare nero, un uomo senza volto comincia a chiamare. Forse questa volta si parte davvero, ma questa sacra terra io la voglio baciare. Qui io lascio un sogno di quando ero studente, di vederti felice e il resto era niente, di avere una capanna tra le belve feroci che lasciavano orme, non migliaia di croci. Il cielo è stellato, una donna in un lamento che procede a fatica scavalcando quel bordo. Pare voglia trattenerla anche un soffio di vento che le allunga la veste per tenersela in ricordo. Cominciamo a stringerci, iniziamo a navigare con lo sguardo all'insù, cominciando a pregare. Ovunque tu sia, qualunque sia il tuo nome, mio Dio, voglio tornare, non mi importa come. Il cuore lo sa, il cuore lo sente, e ormai non può più far finta di niente, perché in quelle facce così stanche e nere, così consumate, così piene d'amore, c'è proprio il mio cuore che si è addormentato e non sa più amare. È il vero profugo da salvare. Il cuore lo sa, il cuore non mente, non resta a guardare, non è indifferente, mandalo avanti, fallo volare, apri la gabbia, che lui lo sa fare. E noi abbiamo bisogno di volare con lui. Bottiglia che mi porta non ci siano frontiere, perché non ho bisogno solo di bere, ma di una vita di speranza e perdono, di sentirmi a casa anche se a casa non sono, e non veda in me soltanto un fardello, ma una vita, quella di suo fratello.